Attenzione, signor Marino! Hola! Attenzione, signor Bacchiglio! Attenzione, signor Bacchiglio! Oh, signor Bacchiglio, buonasera! Certo! Buonasera, signor Tore, come avete scucciato? Sì, scucciato bene! Andiamo! Quanti mai la chiusura? Ah sì, in pochi cenni, un pezzo del spogliatore. Una moletta se la può vendere, è un forato, adesso ci può fare una moletta. È impregnato. Ma stamattina, domani ha detto che ha chiamato. Stasera io l'ho chiamato, stamattina ho chiamato, nessuno ha risposto. Dice che ti ha chiamato lui, ti ha chiamato, però boh. No, c'era molto guerra in me. Molto guerra in me. Forse per quello non lo sentivi. Io ho lasciato acceso tutto e ho acceso il cane giù. Invece hai chiamato quando io ero giù, ero. Ho chiamato sia prima con l'attaccare della macchina, poi ho chiamato la provincia che è su giù. Io non lascio. Né in verticale né in orizzontale andava. Invece quando hai chiamato quando non c'ero io. Era tutto acceso, però ero giù con il cane, ho portato giù il cane, ho portato. E c'è una propagazione stasera, è un casino. La Francia, la Spagna, sotto gas da io, ma io sono detto che è un po' comico. Boh, io e non che non la gente giù non dà. Era già da regia acceso. Adesso sono le 4 e mezza. È un casotto, allora sparati, 9, 5, 9, 10, radio 5 perfettissimo. Sembra una cosa stata tua. Boh, io l'ho acceso verso le 6 e propagazione ce n'era poco e nulla. Poi ho cavato, poi se ne è andata la propagazione. È arrivato in guerra in me, in abbondanza. Mi diceva, credi tutto che abbiamo andato a dormire. Infatti, e va tu beh. C'ho la scatola, ce l'ho pronta, Ani. Dimmi quando vuoi apportartelo. E adesso non c'è fretta, tu. Non ti capita. Sì, sempre in settimana te lo porto là, te lo porto. Come ne vedo. Oh yeah. Ma cosa? Costantino ce li hanno. Allora sappiglino, che non so buone ancora. Anche a metà settembre se è buono, se non faceva, non sono buoni. Stavo a fare a meno la prima acqua, la prima pioggia, ma se è buono. Chiaro, ma è tutto brida, ma è una brida, tutto sabbioso. Ma l'ho vista stasera, non sono passato, mi contadino di là. Passati da tuo genero, e là. Già sapellino, mangio da pensarmi con chi sei burro. Certo, non mi basta quello che mi hai dato tu, Bacchi. Ma quello è diverso. Passi da Costantino e via. E quando c'era il suocero, a Calgaria via. A tutti, gli passava di piano Gargano. E più i sei buttiani. fuori! È tutto fuori quasi, quindi da niente, quando basta se ne ravvasi. Ma ne frega tutto però, Costantino. Ha fatto pulizia. No, ma io l'altro giorno, quando siamo ieri, quando siamo passati, è tutto fuori, venne un bel venne. Sì, venne, è a Buglia. A Buglia ce n'è. E poi adesso, se non piove, no, ma ne ha fatti un attesimo. Vieni più avanti dal professore, diciamo, dal cappellone, dove iniziano le prime ville, se tu guardi sulla sinistra, bisogna che sia di coso, sono buoni, vanno i rossi in mezzo, e poi è pieno di spine, un bel di spina. Come fa le prime piogge, diventano buoni. È più brava la pianta, questa della spina, perché adesso è proprio bella imbottita, ma c'è poco di vento, di volte niente, di volte. Infatti, bisogna stare lontano, va, bisogna stare, anche come ti fate un bel poco di vento, va, le spine volano. Volano. Marmolino, si è sentito oggi? Dice che l'ha sentito stamattina, Gian Maria l'ha sentito, mi ha detto. Io ma che inteso oggi, ma l'ha sentito presto però. È impregnato, senz'altro c'è l'ufficio completamente aperto. E c'è i clienti e bisogna sbrigarli. Sicuramente c'è gente a casa. Più la figlia con i nipoti. La voglia, se non sono già andato a mare. Poi l'agriturismo era aperto, mi sembra che era aperto oggi l'agriturismo. Oggi era aperto, dunque sta lavorando. Andiamo. Cazzo, bubù. Così è, non ce la fare. Ragazzi, ho sentito sì. No, ho sentito a nessuno. Sono a Gio Maria oggi, ho sentito boh. Non ha sentito già nessuno. Non un messaggio ieri mi ha mandato. Gli auguri di buon Ferragosto. Io no, non ho sentito per niente, no, non ho visto neanche più la moglie. No, io non l'ho visto più. E se a me non lo riconosco. È sempre uno mattesse mio, sempre un mattesse. Tanto è cosa. Allora se non volevo entrare più. Io sto male, mi dà fastidio, non si sa. Ripeto, non lo so, un messaggio e basta. Non ho sentito per nulla. Vabbè, signor Bacchi, ci siamo risentiti. A domani, tutto canto, lasciamo. Ci sentiamo, signor Bacchi, di Misocciamelli. Alle prossime, ok, ben sentito, bella chiacchierata, è tutto, ok. Ciao, signor Bacchi, a domani. Ci risentiamo, ok. E ciao agli ascoltoni. Riprendo io. Ciao Tore, buona serata. Saluto la signora, buona cena, buon tutto. A domani. E anch'io, è arrivata l'ora anche per me come la tua. Devo scappare giù. Benissimo, salutiamo anche gli amici che sono in ascolto. Tanto Gian Maria sarà in ascolto, senz'altro. Buonasera anche per lui. A domani, se tutto coincide, c'è la chiacchiera amatore. Infatti, già chiude il todo. Ciao a tutti. Ciao, signor Bacchi. Domani, ciao.